fault. Siano a Russendi, a tutta Russia e non... È vero! È vero! Graziano sta arrossendo, non può entrare! E cos'è che sta combinando? Unghie di topo! Caccia! Datti si appendendo allora a lui! Ah, questo prima ci sta appendendo questa cosa! Ma che cosa brucia? Cosa brucia quella roba? Tutto! Da la legna, pellet, nocciolino, semi buccia di nocciolina, tutto il semi piatto. Cazzo. E cosa c'è sotto? Un bracciere, cos'è? Perché ho visto che c'è un treppiedi e sopra i treppiedi c'è questa scatola sotto. Dove da dove c'è la fiamma? Esatto, è un tubo, è un pezzo di tubo di canna fumaria. E poi dentro c'è un contenitore con delle prese d'aria e ci metti dentro, lo riempi di pellet o di quello che vuoi e poi accendi, no? Da sopra basta, metti quel pezzo di tubo e la lasci andare. E ti dura questo piccolino da neanche 8 etti di pelle, ti dura un'ora. Bisogna farlo con materiale speciale allora quella roba. Dovrebbe andare bene. No, non c'è materiale speciale. Vabbè, se uno vuole spendere qualcosa in più, ma così già così va benissimo. Naturalmente vuole più grande, capito? Perché almeno si fa quelle 4-5 ore con un contenitore da 4 kg di pellet. E dove si può mettere questa roba? Dove vuoi lo metti? Dove vuoi? C'è una camera dove la stufa non si scalda, la metti in quella camera lì o dove vuoi. Ma sei quanto scalda? Ma devi mettere sempre l'uscita della canna fumaria fuori, no? No, assolutamente. Assolutamente non fa fumo. Niente, se lo dire niente. Non fa fumo. Ma è una cosa che brucia, ma così, ma bruciando qualsiasi cosa, alla fine la camera te la fa nera, sembra così, ma sembra che non ci sia fumo, ma c'è il fumo. Non ce n'è, non ne fa. Guardati il video, non ne fa. È un nuovo sistema di combustione, capito, Giommai? È un nuovo sistema di combustione questo, che tramite delle prese d'aria fatte appositamente e dove vogliono fatte, fa sì che lui bruci da sopra e non fa fumo, non brucia da sotto come quando accendi la stufa a legna o il barbecue. Ma il resto va bene per me, però l'uscita, sembra così, ma crea il vapore, la polverina la crea senz'altro, perché tu stai bruciando una cosa che è la polverina, capito? Si può vedere questa polverina, magari non la vede, però si attacca ai muri. Oh, la porto a casa tua, te la prendo a casa tua. Non lo so, vedendo magari così, mi sembra così a me, capito? Poi magari sarà diversa. Comunque, sperimenta. Va bene scaldare le scale, non credo che scalda, ragazzi. Quando entra il calore quel tubo, sembra così, ma scalda, Questa si scalda, hai visto i gradi misurati con la piccola tecnica? Va bene, fate una grossa, e la mettiamo subito in vendita. Aio! Oh, grazie! Grazie, Aloe! Il Trulli è andato a, a cercare da mangiare. Aspetta, adesso che mi sono, mi ho tagliato i capelli, mi sto lavando la testa. Bello no, gli ho mandato un messaggio, no? Che la zuppa l'abbiamo spenta perché ha fatto una specie di bomba. Ed è sparita la fiamma, troppo vento c'è. Cioè. Non si può tenere, poi sta iniziando a fare puzza pure. Fatta, bisogna stare attenti, sembra così, ma... Fatta, ma era chiusa però quando ha fatto il rumore. C'era chiusa, la zuppa, per forza, non era accesa era. C'era a caldo, stava bene. E ha fatto boom, cazzo cos'è? Guardo, non c'era più la fiamma, poi si è di nuovo ripresa e l'ho dovuta spegnere Giovanni perché non... c'era puzza, troppa puzza dentro casa. Perché ha accumulato tutto, la pasta anche a te, e ha fatto la pasta, vabbè, comunque noi ce l'abbiamo spenta adesso. La devi pulire bene. Il pellet, quello tanto grande, tutti i dubbi. Vabbè, mi lavo la testa, dopo entro. Sì, dai, io stavo per dirti questa cosa qua che io mi assento. Ci vediamo, ci sentiamo dopo. Riprendi Giomari. Ok, ha fatto bene, aspetta. Io ho sentito qualcuno di superare che ha tre copiati, che ha fatto ritorno in fiamma allora questa cosa, forse c'era troppo pressione nei tubi, non lo so, macello, certo, non si riesce a mettere a posto questa stufa. A chi io, Giomari? Oh Luca Mello mi ha attaccato, certo è Mello. E lui è papponta, se buoni popcorn, se buoni... Io vado a ricattare contro gli attudai. Come si fa a pulire eccetera eccetera Luca, vai. Ci vai e gli metti a posto, guarda, sei bravo tu. E io gli ho detto cosa deve fare. Per evitare quella storia lì. Cazzo, prima succede qualche cosa e bisogna controllarla questa cosa, capito? Per il sicuro, faccio e vedo un po', cazzo, aiuto. Cazzo. Ah, che la chiamata un decri come vuoi dire, solo la chiamata è male 40 euro. Cazzo, gli mi resi l'attacchia. Ci vuole quella maiora di regole, se non lo risolve, non ce li pesco anche. È mio, l'ho preso stamattina, luce la luce l'ho fatta. Cazzo, ed è un mammo. Cazzo, io mi lamentavo che la vera dove la fiamma e invece c'è mio figliolo della merda, cazzo, è un bombo. Ah, ma mi pare più meglio la mia della Giulia. Sì, perché bisogna anche smontare il pannello frontale, dietro il pannello frontale ci sono i tubi dove, dove passare l'aria, capito? Se quelli si intasano con la fuligine col tempo, la stufa non tira più, capito? Non è che la stufa devi pulire solo il braccierino e lì davanti. Capito, almeno una volta a settimana bisogna pulire tutte quelle intercappelli. Io non credo, per forza, cazzo. Io la pulisco un giorno sì, un giorno no. I tubi no. Però è tutto, la cosa principale la pulisco tutta, quasi tutta io, tranne che i tubi li pulisco quando la smonto, quando si finisce che non serve più il caldo, allora la smonto tutta e pulisco anche i tubi, cazzo. Però il resto bisogna anche pulire, se è possibile anche i tubi si puliscono. Da me è facile, capito? Perché io ce l'ho dritto, ma se ci sono curve e pezzi orizzontali lì, se rimane la polvere magari si può bloccare anche così per quello, capito? Tu pulisci il braccierino, pulisci dentro, ma dietro, nella stufa, dietro il pannello che c'hai dentro. ci sono delle intercappine dove passare l'aria, capito? Molte volte le stufe non tirano più per quel motivo lì, capito? Il giro fumi si chiama, diciamo così. Marcella. Oh. Ma com'è quello con precisa quella di Graziano, Luca? Luca! Adesso se buona andare anche per sui capitali, la stufa, prima di bocca di bucare. Comunque bisogna stare anche attenti, perché io ho sentito che fa certi brutti scherzi anche in queste stufe, così che bisogna pulirla molto spesso in modo da avere lo sfogo perfettamente, sia all'ingresso sia all'uscita. Certo. Da Ugliria. Mi ci mandano un'ora, vero, però l'ho fatta lucida lucida. L'ho fatto. E poi io quasi ogni 15 giorni mi tocco lo sportellino dove c'è attaccato il tubo, che c'è un attili. E anche lì lo smonto sempre e pulisco bene e sento la bomba della aspirapolvere. Batto con il manico del martello il tubo e arriva la malasciuta, il vivo là, che rimane attaccato. Per dire, no, bisogna pulire come si deve, dai, ecco. Pascescia Michele! E allora, grazie! Ehi, un attimo, entro subito! Grazie, mangia del malettone, sì! No, mi sto avvicinando, la macchina sta nei cappelli! Perché i cappelli l'hai fatto? Ehi, avanti a lavarti! Ragazzi, come fai a farti i cappelli da solo? Non viene male! No, è leggera questa macchinetta! È a batteria e viene benissimo. Certo. E anche io ce l'ho la macchietta, ma non me lo sto fatto mai. Le basette mi aggiusto ogni tanto, quelle già me le aggiusto, ma fa i capelli così mi viene male, boh, non ci riesco io, boh. E tu come ce li fai tu? Di fianco. Gira, faccio fare la 50 e faccio mettere una chicca in campo e giri dagli adduccio. Insomma, ma avete riassumato qualcuno? Come? Riassumato qualcuno avete per caso? No, ho capito. Lui cosa ha detto? Ho capito. Ehi, se l'avete tolto dalla tomba qualcuno, mi. Buonasera. Buonasera anche a te. Oh, Luca, cosa... Ma non riesco a capire, ma forse la colonnina mia è mezzo scassata. E hai resumato qualcuno? Sì, Gian Maria, era riferito a Luca, mi, che ne è uscito a Pizzo. Ah, ho capito. A Pizzo è uscito. Il ventesi sempre, il ventore, Archimede, bisogna chiamarlo Archimede, no Luca, no, Archimede bisogna chiamarlo, perché sta sempre inventandoci. Vabbè, dai, buonasera. Buonasera, l'hai sentito. Come fa una persona? Sì, già sta andando anche lui, adesso se n'è andato, ma a male mi senti perché? No, adesso ti sento bene, dai, che era coperto, mezzo coperto, e lo sentiva bene per quello. Ciao Tino! Ciao, grazie, buonasera. Ehi, anche a te! Vai, Luca, andato se. E sarà inventato, Luca! Luca! No, eri tu, cioè, non potevo rispondere, sto per uscire intanto. Ciao Tino! Ciao, scusate che non abbassa. Ehi! Ciao! Dio Maria, ti devi comprare quello spazzolino rotondo per pulire i tubi della stufa. Spazzolino? Non c'ho la scoppa, devo comprare. Già c'ho la scoppa grande io. No, questo spazzolino te lo scrossa proprio, è di plastica, anche i tubi vengono, o anche con le prolunghe, là. L'ho preso io, non è poco funziona. Ne ho due di quelle macchinette. Ne ho due, c'è tutta l'attrezzatura, da poco di pettini. Aspetta, beh, ce ne sono 7-8 pettini, di tutte le maniere, grossi, fini, più fini ancora. Ma no, le basette sì me le faccio, ma proprio no. Oh, no. Cazzo, la barbiera io che mi fa tutto a me, barba e capelli. Vedi, sono occupato i denti dello spazzolino del tubi per pulire i tubi della stufa, amico. Ah, di quello. Aggiù posso un coso, un calamasso, aggiù posso. E più un rotto di cose di dell'acciaio, quella grossa. Ah, sono trovato lucido. Ma con quello spazzolino che ho preso io è proprio fatta apposta per pulire i tubi, è plastica, un po' contorta, è una specie di palla là, con delle punte, diciamo, là. E lo entri dentro, fai tutto a per fare del pulizio di tubi. Beh, quando pulisco i tubi io li svolto tutti quattro pezzi, solo i quattro pezzi, altri tre pezzi e mezzo li ho tubi io. Le smonto e me le faccio uno a uno come voglio io, adesso un mescolo luci di luci e non c'è bisogno di quello spazzolino. Anche io faccio così pezzo a pezzo lo pulito, ma l'altra volta l'ho pulito così con il martello su e poi li ha puliti, invece no, era tutto intasato, era incrostato, attaccato. Con lo spazzolino me lo pulisci bene. Vabbè, cazzo, da te magari, perché è diverso del mio tubo dritto, per cui sono tre pezzi, è dritto e viene bene. Quando li smonto io, tutti e tre pezzi, a uno a uno c'entra quello che ti ho detto, e adesso come se luci riesce. Anche il mio è il tubo dritto, poi all'uscita è orizzontale, un pezzo da 60, però tutto l'altro è dritto, che sono un pezzo, due pezzi, tre pezzi, quattro pezzi sono là. Tre pezzi e un pezzo ce l'è, dai, un pezzettino. È corto, così che io ne tolgo tutto, anche la T dove c'è la ventola, capito? E tu mi tolgo tutti io quando la pulisco, capito? Ma questo lo faccio a fine di stagione, diciamo, ecco, quel tubi bisogna pulire tutto così. Però un giorno sì, un giorno no, dove brucia lì, che me lo pulisco un giorno sì, un giorno no, per cui è sempre pulita la stufa, capito? Ecco perché magari brucia bene, per cui sono tranquillo, ecco. Adesso lo so, Luca, come ce l'hai tu, se ce l'ha orizzontali oppure ho verticali tutto, e se c'è curve, bisogna anche vedere anche le curve, perché si blocca, si attacca lì, si blocca e cazzo, non esce fuori bene diciamo i gas, ecco. Era una curva solo c'ho io, però lì non me la sacco neanche dal muro, è il cazzo. Dentro il pennello a becca quello lungo, che glielo mondo di sapura, con frisco, prende la busca, e già esce pulito. Eia, bello. E poi la pulisco ogni giorno io, avai, ma ti pigliato pure la sfida a polvere adatta, aspira tutto, anche l'acqua, è professionale questa, era non forza me l'ho comprata. Adesso con giuccia. Sulla povera bisogna avere la perforcia, come fai? La grossa magari, quando ce n'è parecchio, quella prego il pannello, la pulisco tutta quanta bene, dopo che ripasso il pannello da tutte le parti, allora c'è l'aspirapolvere che aspira, se l'aspirapolvere ci vuole, e so come fai a aspirarla tutta bene, capito? Luca! E Lu! Signor Bomba, ma allora è pulita la stufa, Lu? Sì, non c'ero, sono andato a fare una commissione, dai. Diciamo, più che una commissione, un lavoro è... La pulita, sì, è pulita, pulita, pulita. E poi ti ho detto di riaccenderla, ma ti lascio aperta che c'è un po' di vento. Domani, va. Quello è il fumo che c'è intasato, l'abbiamo fatto anche a me, a giusto, un freddo, giusto bianco, giusto, ha fumicato e ha sudato la fiamma. Allora ne ho staccata, ho messo lo sportello e ha fatto buh, e mi ha fumicato la casa. Parola che entra l'aria da sopra, no? Era più forte l'aria di sopra e ha fatto quel rumore, no? Maria è una bomba, Maria, mi ha fatto buh, e tutto un fumo si è fatto dentro casa, là di chi l'ha fatta a me. Vabbè, il giorno c'era anche vento, adesso che mi ricordo, però erano tutti sfuggi. E il pellet che non si via, non andassi a me, non lo bruciava bene, rimaneva tutto incandescente dentro il portacenere, acceso. Marcello, no, il mio questo difetto non l'ha fatto mai, mai. Grazie a Dio, non so da che cosa può dipendere, io penso che lo sia, magari c'era vento e magari è entrato vento da aria da su, dal tubo, e ha fatto quel rumore, capito? Entra, magari ha trovato la pressione della ventola e magari ha fatto un rumore, boh, non lo so, bisogna anche vedere queste cose, perché mi è una bomba a me. Ehi, ci ha fatto un tipo boom, come ha aperto lo sportello, a vedere come si fa, per avere un fumo. Ah, pari una bomba, ha fatto boom, e noi ci giunge un fumo. E poi domani ho controllato il tubo ed erano tutti brutti, intasati, ma era dal pellet, era anche intasato il portacenere, di pellet mezzo bruciato, non era bruciato, capito? Ed era pieno pieno a bocca, una montagna, la montagnetta accesa, perché lo serviva il pellet. È quello che lo faceva scorrere bene il fumo, cazzo. Il macello, bisogna stare attento a queste cose, va. Sì, bisogna stare attento, se fa così, però ne ho sentito, per cui bisogna stare attenti. Vabbè, adesso lo sappiamo e per cui bisogna stare molto attenti a queste cose. Bene, Vera, vediamo un po' se è rientrato Tiro, no. Prepara. E poi Graziano, non si apre mai la stufa quando è accesa, né quando è accesa né quando si sta spegnendo. Tu sei pazzo. No, che si era spenta, la fiamma era spenta, si è sudata, era acceso, era mezzo acceso e mezzo sudato in un portacenere, dove scende il pellet, però era una montagnetta ed era incandescente, però non la bruciava, capito? Ecco perché mi ha accumulato il fumo, la pentolina che buffa, fa mandare l'aria, ma brucia. Era sempre i legni, invece era dai tubi intasati da quel pellet, perché poi il portacenere io l'ho svuotato, quando era freddo in domani, e rimaneva tutto colloso, faria gatramo, ed era il pellet che non si via. Ma bisogna prima di aprire lo sportello, deve essere tutto spento, prima aprire lo sportello deve essere tutto spento, è pericoloso, non apri mai se è mezzo ruio o mezzo sudato, non apri mai lo grande così, se è tutto sudato allora puoi aprire. Ehi, lo se la papà staccata la corrente. Tu la potessi staccare la corrente, non funzionano. Però dentro, sopra il protoaccendere, il pellet si vedeva appena appena acceso e c'era la montagnetta e tutto un fumo dentro, rovretto qui lì, si vedeva bocca nuda. Infatti come aperto, ha fatto boom, la pressione, perché stava accumulando tutto il fumo lì, compreso. Non riusciva a fiatare. La roccrede, certo, si è intasata l'uscita, certo. Se lo sfoga è pericoloso, capito? Si attacca un fattore boom in lì dove brucia, capito? A danza lo vedi, capito? Ma una scherzata, no, non apri mai comunque, se lo è sudato. Così è lui. Se c'è fumo ancora. E lui, secondo me voleva fumicare i salami, Graziano, hai capito, Gio Marino? Noni, era il tipo del pellet che lo serviva, rimaneva colloso, pari a vischio, o dovrebbe anche colloso, e mi ha intasato tutto il portacenere, hai capito? Ha fatto la tappa e un bumbo ha intasato tutta la stufa e non lo riesce a piazzare, però la ventolina dentro stava sempre andando, ma non si attava, capito? A chi era tutto intasato il portacenere. E poi sa che, ma non è che tra due vanno i pezzi, no? O era umido la pellet, capisci? Umido. Certo, era umida per caso, no? E non bruciava malissimo. No, se il pellet io non era in garage, quando il pellet mi era su direttamente a casa, lo metto in salone in un angolino, o se no nel pianerotto. Però in terra ci metto sempre un'incerata, noi gli appoggio in terra lucido. No, no, era il tipo del pellet che non andava bene. Era montezza e su pellet. A me paese alla bofferiera e sarei invece da ti la pelle tagliata la fuga a bove, ragazzi. La cosa esplosiva, dopo lo fate mettere Luca, Gio Marino, si buoni tramazze, si buoni noccioline, si buoni un po' fortuna da tagliare la stufa. Legna, di tutto sicuro di Graziano, Gio Marino, cosa ci vuoi fare? E allora, è sicuro. A chi Luca avesse un ratto, poi quella invenzione che hai fatto, prima di ballatura giù fatta io magari gagliari e con la segatura, e poi ti ho messo il bazzichizzo che hai fatto in giù. Baba, Gio Marino, intendimi Gio Marino. Ma, non è, bobo, a me mare accoppiamento a questa cosa, bobo, lu, non è che era furato un bruggetto a coso, da Graziano. E se chiedi a Giulio in falegnameria da lui, se lo faceva anche lui, prova a chiederglielo tu, e vedi cosa dici, si la fa di burletto la soffetta. Così, con i minori di lui diluente, gli fai un po' un foro in basso, poi un pezzo di roccia al centro, la viene segatura, la pressi, poi sfili il legno, attendi dallo sportellino di sotto e ti dura tutta la di e cagli un pezzo. È vero! Ehi, tu non l'hai mai fatto in campagna, Giommaro? No, una cosa del genere. Io da una persona l'ho vista, la segatura e da una tabulana l'ha fatto, metteva tutta segatura e dove vai fatti giorni interi a cerpo acceso, capito? E scaldava, certo. Ma questo di Luca è tutta un'altra cosa, certo. Fumo non le toglie, vero lo diglielo, aria pulita. Ma che lì devi mettere a portata di mano l'estintore, non si sa mai se ti dà l'asino di burca, il cendicante uvei. Ai, Luca, che li prendiamo subito, fa un progetto grande che te la vendiamo subito. Fanne una bella, come senti che la vernici bene, la fai bella, metti quella vernice alte calorie e poi fai, la metti su internet e vediamo. Se la vendi, allora facciamo una catena. E te dillo. E poi come ti ha detto a Graziano? Ma se l'ha vinta da Edu, ma allora, oramai il progetto si sa già e ti prego il lavoro. Graziano, ti senti? Come ti ripartiamo un tempo con un fragile, Gio Maria? Che ti partiva tutta la casa niente, ogni fumo, a te a me. Con quel bracciere che si metteva per terra. No, il bracciere ce l'ho avuto io, la colbra, lo bracciere, non sono. E da poi li buniamo un diavolo sopra, un barattolo di pelato, Antonella, un centro, un galbone, e fumano ne vazia, bello bene, scintillisi, diglielo Giovanni. E io cosa posso dire, io sono ignorante in materia. Capito, ma allora voi siete esperti allora, perché ma quello di Lucca è favoloso, è favoloso, quello lo mettiamo in internet, se lo mettiamo e vediamo un po' cosa esce fuori, vero lui? Gira gira noi a una colpa con un bracciere Giovanni e ne puni un diavolo in tre innata un galbone un bracciere aveva avuto un bracciere e la coppia come si chiamava la coppia su donzo che si poteva un bracciere innanto come si chiama in chasserizio la coppia cosa com'è la colpa. Ah, la colbura, esatto. Noi diciamo sagoppe. No, sagoppe. Sagoppe. Va su per giù è così. I sasserese sa la colbura. Cazzo, e altri tempi ieri. Cazzo, solo questi tipo di casini, con un bracino. Da voi per la città Roma, donna, Maria la cuppa di un coso, Maria, la cuppa di Santa Maria, Maria che ha passato a Roma, tutto fatto ai secchi, così è. E allora, io la giusto le due femmine, nata la colpola, a coccia becchi, cadendo in giro, cadendo piscino. E tu a mandare se pizzicosi, oh, sorpreso, prima lasciare i budresi, le scia, ragazza. No, si rizzappava le lasciare i budresi e poi che le femi. Ehi, a chi non lo gioco? Ma, o se non le vedi tutti bussati in giro, con i beni appoggiati alla colpa, la coccia all'aria, cadendo in giro. Ipa! Luca! E il carico quante volte hai caricato la stufa progettata? Non ho capito, grazie. Quante volte l'hai caricata? Un'ora, due pugni, così è. Otto etti circa ti fa un'ora, sì. Che è buona! Cada vecchia, spaccati una gamma! Chi se non vuole una gamma che non va a arrivare un garone. Solo che magari ogni tanto devi controllare. Certo, lo fai grande. Non è che fai il modello piccolo. Se devi scaldare una camera per 2, 3 ore, 4 ore, fai il modello da 5, capito? Così sta sempre pieno di. Il modello piccolo fai direttamente il modello grande. Io con quel secchio di diluente, la mia che è quanto è quello bianco e plastica, lo mettevo nella salamessa per non accendere il caminetto, se no se ne mandiamo un bel legno al caminetto, in falegnameria, e durava tutto il giorno, la sera me ne andavo e lo lasciavo acceso, la domani mattina trovavi la camera calda e lo bracci ricalda ancora, e allora lo ricaricavo di segatura. Vabbù, dai, io sto chiudendo, ciao, ci sentiamo domani, buonanotte. Ciao Lu, buona passeggiata, poi ti ricontrappesi che ben vento. Vai Giammari. Ciao Lu, ci sentiamo, vai, buona passeggiata, ci sentiamo. Vai bello. Sì, ciao Lu, attenzione ai subattato, me, no, che si infremmia. Grazie mia. Ciao, ciao. Ciao Lu, ciao, sono entrato, c'ero il telefono con una persona. Ehi, ciao ti anche a te, dai, ciao. Cudri due pugni a capo a mister Mandolino, ciao. Chiudendo sei ti. Cos'è? Chiudendo sei. No, sono rientrato, ero al telefono. Ah. Quindi non ho seguito né il filo del discorso, non so neanche di cosa stavate parlando. Ehi, ehi. Aspetta, facciamo parlare a Luca, il bello. Ah, ti Luca il bello. E aspettate un attimo, insomma, 10 minuti, dammi 10 minuti che lo metto sotto carico. E non lo uso mai, è quasi scarico. Lo metto sotto carico e vi ascolto intanto. Non ho capito. E lo metto sotto carico e vi ascolto. E non lo stavo più usando ed è scarico. Ehi, vabbù. Allora, ci sentiamo, vai. Ce la sono, 7:20. E vai, io pure chiudo, dai, che non li ho voglia di chiacchierare, dai, saluto a tutti, dai. Ciao Tiro, Graziano e chi ce l'ascolta, dai, chiudo. Allora, a ti sentire, vai T. Ehi, dai, sono ancora ex anch'io, ciao a tutti, ciao. Ehi, anche io, tanto mi devo fare il turino tra un po'. A domani se coincide, ciao, ciao a tutti.